Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Il giorno più atteso per Barack Hussein Obama, alle 16 italiane, giurerà e sarà il primo presidente nero degli Stati Uniti. Matrimonio Fiat Chrysler, firmato l'accordo preliminare al Lingotto, il 35% della società americana, una pietra miliare, dice Marchionne. E intanto Parigi corre in soccorso del settore dell'auto con oltre 5 miliardi di euro e chiede un piano unico europeo. Via i carri armati, arrivano gli aiuti a Gaza, la missione italiana, i due bimbi vengono trasferiti in queste ore in un ospedale toscano. Morire per strada per il freddo, 6 senza tetto morti a Milano negli ultimi 10 giorni, si lavora ad un piano d'emergenza. Il sequestro di Punta Perotti contrario al diritto alla proprietà privata, la Corte di Strasburgo sanziona l'Italia per la distruzione dell'ecomostro. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. Dunque, il momento è arrivato. Oggi Barack Obama sarà ufficialmente investito del ruolo di presidente degli Stati Uniti. Però c'è un altro filo che oggi unisce l'Italia all'America ed è il super accordo stretto dalla Fiat con uno dei tre giganti dell'auto a stelle e strisce, cioè Chrysler. Una intesa che dovrebbe consentire alla Fiat di superare la crisi e di affermarsi su scala internazionale. Di questo però parleremo tra un po'. Perché quella di oggi è davvero senza retorica una giornata storica, l'insediamento alla Casa Bianca del primo presidente americano nero. I giornali di oggi, le televisioni naturalmente ne parlano senza sosta, noi cominciamo con raccontarvelo attraverso le vignette e cominciamo con la vignetta sul Corriere della Sera. Stefi, osanna per il Messia Obama che oggi si insedia alla Casa Bianca, incrociamo le dita e speriamo che sappia camminare sulle acque e moltiplicare i pani e i pesci, e le attese davvero sono molte. E invece Crancis sul giornale la vede così: l'insediamento di Obama in salsa italiana. C'è una folla, una moltitudine con dentro Veltroni che alza un cartello scritto I have a dream, I care, yes we can. E la gente che si domanda: e quello chi è il solito italiano? Insomma, comunque la vogliate vedere, oggi inizia davvero l'era di Barack Obama. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. E andiamo a Washington da Luciano Clerico. Buongiorno. Buongiorno a voi. Questo era il tormentone della campagna elettorale. Non so se in America va ancora questa cosa. Luciano, che giornata e che festa sarà? Un inauguration day aperto alla gente? Assolutamente, noi abbiamo cominciato qui a lavorare alle 4 del mattino, per rendervi conto, perché le misure di sicurezza sono imponenti e bisogna passare 1000 posti di blocco per arrivare in ufficio, però alle 4 del mattino già la città era invasa da gente che a piedi andava al mall dove si terrà la cerimonia dell'inaugurazione, e c'è questa atmosfera, come dire, contrastante e fortissima. Un po' per da prendere i posti migliori, insomma. Esattamente, da un lato è come se ci fosse, vedi, così tante uomini del servizio d'ordine, tante sirene, tanti lampeggianti, che dici, ma questa è una città sotto assedio. Però nello stesso tempo c'è un'allegria diffusa, un'energia positiva incredibile. Saranno almeno 1 milione già le persone in attesa dentro al mall, che fanno la fila per entrare attraverso i posti di controllo. È un numero impressionante. Impressionante, ma vedrete che si raddoppieranno, secondo me arriveranno anche a più di 2 milioni. C'è un'atmosfera storica, veramente storica, una festa della gente. E del resto la giornata è davvero storica. Grazie intanto Luciano Clerico da Washington. 1 milione e forse 2 di persone, energie positive, diceva Clerico, e le anche aspettative, per le aspettative sono tantissime che si concentrano su questo nuovo presidente, un po' perché accade sempre, un po' perché questa volta davvero la svolta sembra maggiore. Ma le aspettative sono tante, sicuramente quanti sono anche i problemi da risolvere, dalla crisi economica alla sicurezza internazionale, questo lo sappiamo. Michele Salvati, buongiorno. Buongiorno. Economista e tra i fondatori in Italia del Partito Democratico Nostrano. Le chiediamo, riuscirà Obama ad affrontare questi problemi davvero molto molto grandi e soprattutto, parlando in termini di realismo politico, quali ostacoli dovrà superare per uscire da questa crisi? Questo è ancora presto per dirlo, è un uomo che ha dimostrato una straordinaria retorica e ha infiammato una gran parte dell'elettorato che si aspetta moltissimo da lui e temo che appunto alcune di queste aspettative siano sino eccessive rispetto alle possibilità che avrà. Negli Stati Uniti, io ricordavo nell'articolo di stamattina sul Corriere, ci sono stati lo secolo scorso due grandi momenti di svolta che hanno dato luogo veramente a due Americhe, due Stati Uniti diversi, voglio dire, il grande momento che dall'America neoliberale, diciamo, dei primi degli anni 20 ha portato all'America di Roosevelt, per intenderci, che poi è continuata grosso modo anche nel dopoguerra, quindi è il tipo di America, diciamo, liberal che molti della sinistra, incluso appunto Veltroni e il Partito Democratico, sognano, anche se allora naturalmente i loro capi erano molto critici nei confronti di questo. Allora, questo tipo di America qui e poi dagli anni 70 in poi una svolta neoliberale che è quella dalla quale in questo è emerso Obama, voglio dire, che ha avuto come suo apogeo George W. Bush, per intenderci, contro cui qualsiasi democratico probabilmente avrebbe vinto. Avrebbe vinto una donna, ha vinto un nero e questa è una cosa straordinaria. Aspettative enormi. Se riuscirà a superare innanzitutto di risolvere la crisi finanziaria, cosa che tutto considerato farà, non so con quanta radicalità, eccetera, ma poi anche aspettative che cambi il tono, diciamo, morale, cioè la filosofia di politica economica dell'America, esattamente, che la faccia ritornare a com'era, diciamo, ai tempi di Kennedy, per intenderci, o ai tempi di Roosevelt, voglio dire, faccia ritornare un'America liberal. No, un'America tra l'altro anche molto più regolata di quanto è adesso. Ora, un'America che appunto a questo punto risolva i grandissimi problemi che ha, per esempio la situazione, diciamo, indecorosa del suo sistema, costosissimo sistema sanitario, voglio dire, no, che lascia fuori un 40-50 milioni di americani dall'assistenza sanitaria, che cambi la distribuzione del reddito. In questo momento bisogna pensare che appunto c'è, negli ultimi 20-25 anni il reddito, gli incrementi di reddito dati soprattutto al decile, ma addirittura che decile, voglio dire, all'1% superiore. Insomma, queste cose qui chissà se ci riuscirà. Questo è veramente il campo enorme dei problemi che Barack Obama dovrà affrontare a partire da oggi. Grazie intanto a Michele Salvati, ricordiamo, economista tra i fondatori del PD in Italia. E dietro ad Obama ci sarà oggi la moglie Michelle, un tassello importante anche questo, di questo successo e della sua immagine. A lei è dedicato allora il libro che vi prepariamo oggi, Yes She Can, scritto da Marilisa Palumbo e pubblicato da Castelvecchi, un ritratto privato e pubblico della First Lady, l'autrice intervistata da Alessandra Tedesco. Michelle è una donna sicuramente moderna e con lei e con Obama, con le loro figlie, entra alla Casa Bianca finalmente una famiglia che non è una generazione indietro rispetto alla società come invece accade spesso. È una professionista, una donna che fino a poco tempo fa guadagnava più del marito e quindi in questo ricorda un po' Hillary Clinton, anche se la sua campagna è stata molto attenta a non far sorgere questo paragone, visto, insomma, le polemiche che la Clinton attraversò negli anni alla Casa Bianca, insomma, per aver voluto rivendicare un ruolo politico. Ecco, a questo proposito, che tipo di First Lady sarà? Sarà una First Lady presente, non dico alla Hillary, ma quasi, oppure più nelle retroguardie, come per esempio lo è stata quella di George W. Bush? Di sicuro sarà un mix tra le due, nel senso che, come dicevo, non rivendicherà apertamente un ruolo politico, ma siccome c'è qualcosa di rivoluzionario in questa coppia che entra alla Casa Bianca, e cioè che si amano, il che è un po' una notizia, per cui siccome il loro rapporto è molto stretto, tanto che secondo me non si capisce appieno neanche chi è Barack Obama senza capire Michelle, lei avrà l'orecchio del presidente e quindi tutti i temi che le stanno più a cuore, in particolare quello delle famiglie che lavorano, delle donne che devono conciliare carriera e famiglia, sicuramente verranno avanzati. Lei avrà un ruolo fondamentale. D'altra parte sarà anche un po' una first lady alla Jackie, come ha detto qualcuno, perché già il suo stile è molto imitato, molto studiato, in un modo però diverso da Jackie, perché è molto più moderna, nel senso che lei è una che mischia abiti di designer famosi con Gap, H&M, insomma come fanno le donne normali, ecco. E questa è Michelle Obama. Dell'insediamento però di Barack Obama torneremo a parlare più avanti, ne parleremo un po' per tutta la giornata. Il nostro lungo speciale dedicato all'insediamento del presidente americano a partire dalle 16 con Jefferson e poi dalle 17 la diretta per la cerimonia. Insomma, avremo altre occasioni nel corso della giornata. Ancora un'altra vignetta, Vauro, sul manifesto c'è Barack Obama di spalle davanti a un cumulo di macerie e il titolo è La Gazza Bianca, e il riferimento è anche a questo tema che dovrà affrontare naturalmente Obama. E proprio in tempo per l'insediamento di Obama, si è detto, da Gaza si ritireranno proprio in questi minuti le ultime unità israeliane. Oggi arriva invece il segretario dell'ONU Ban Ki-moon ed è partita soprattutto la nostra missione umanitaria italiana. La sta seguendo il nostro Carlo Marroni. Buongiorno Carlo. Buongiorno a voi. Sì, stamattina il ministro degli esteri Franco Frattini ha guidato la delegazione italiana della cooperazione per la consegna del primo blocco di aiuti al valico di Kerem Shalom, a sud vicino al confine con l'Egitto, tra Gaza e Israele, 40 tonnellate di aiuti tra generi alimentari, medicinali e due generatori destinati agli ospedali di Gaza che sono naturalmente stati colpiti. Questi aiuti chiaramente proseguiranno, la nostra cooperazione è tra la prima operazione importante che è stata realizzata grazie soprattutto a una nuova formula di collaborazione pubblico-privato che ha visto appunto alcune aziende italiane, tra cui l'Enel la principale, a dare il proprio contributo. Ma sentiamo l'intervista al ministro Frattini. Per gli aiuti umanitari l'Italia fa sistema, governo italiano, regioni, enti locali presentano oggi questa prima iniziativa che non è fatta solo di beni concreti, ma anche dell'impegno ad un canale umanitario per curare soprattutto donne e bambini, con medici italiani che hanno già dato la loro disponibilità ad operare qui, ad esempio a Gerusalemme, nella Cisgiordania. Ecco, infatti avete sentito il ministro che accennava alle questioni sanitarie. Oggi un aereo dell'aeronautica militare porterà a Firenze 10 bambini palestinesi di Gaza che erano stati dimessi dagli ospedali per accogliere i feriti, 10 bambini malati molto gravi che saranno portati all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze e poi successivamente sempre la cooperazione aiuterà i bambini palestinesi negli ospedali israeliani. Sentiamo il dottor Stefanini, Angelo Stefanini, capo dell'unità medica della cooperazione italiana. I bambini che stanno uscendo proprio in questo momento dal valico di Erez verso l'Italia. I bambini saranno trasferiti all'ospedale pediatrico Meir? Verranno trasferiti soprattutto grazie al nostro personale palestinese che risiede ed è stato a Gaza lungo tutti i bombardamenti, sono in particolare due di loro, due personaggi veramente eroici con cui eravamo in contatto e che hanno permesso sia di ottenere informazioni sui bisogni immediati nella zona che coprivano e anche di identificare con molte difficoltà, come potete immaginare, questi bambini, alcuni dei quali hanno problemi di tipo chirurgico, altri medico. E grazie anche a Carlo Marroni da Gerusalemme. Veniamo in Italia per le notizie di oggi e cominciamo da quella che è ormai un'emergenza di questo inverno. Parliamo della situazione dei senza dimora proprio per il freddo. A Milano è andata ad incontrarli Cristina Carpinelli. Una volta, quando è caduta la neve, ho dormito su una panchina con quattro coperte, ma faceva troppo freddo e allora ho cominciato a camminare avanti e indietro per strada pregando che il tempo passasse. E la storia di Enzo, 47 anni, un lavoro da tirocinante pagato 300 euro al mese, una relazione finita, una casa persa, un'auto venduta, una vita appesa. E la storia di un uomo italiano che sfila grigio davanti all'ufficio d'accoglienza in stazione centrale a Milano. Dice che non vuole parlare, ma poi a fiume racconta: per avere un posto letto si deve venire qui, allo sportello aperto dal comune in stazione centrale. È la procedura, ma in giorni freddi come questi e dopo le ultime notizie di cronaca, 6 senza tetto morti assiderati in 10 giorni, ecco che la macchina si muove più agile. E l'imperativo è accogliere tutti. Per questo saranno allestiti due tendoni riscaldati. Bisogna trovare soluzioni immediate, dice Giancarlo Fenini, che dirige il più grande dormitorio di Milano, quello di via Saponaro. Dovremmo raggiungere la quota di 650 e ci siamo, quindi questo non riusciamo a tenere. Se mai il comune dovesse accettare, prenderemo magari delle persone, le possiamo mettere nei sacchi a pelo. Ma resta il problema di chi rifiuta l'ospitalità gratuita. Tra i senza tetto che incontro, alcuni mi dicono che la vita nei dormitori è dura e che alcuni per questo preferiscono restare da soli, lontano, magari anche rischiando la vita per strada. Ma non è così, dice Gianfranco Fenini. Non è dura, perché lei ha avuto modo di poter vedere le nostre camere. Sono camere a 6 letti, hanno diritto alla colazione, poi hanno diritto alla mensa di mezzogiorno e alla mensa serale. Quindi non è una vita dura, tutt'altro. Solo che chi ha fatto la vita da clochard è difficilissimo che accetti di entrare dentro in quelli che sono i dormitori, perché proprio loro non hanno il concetto di convivere con altre persone. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:19 minuti, le notizie di oggi extra large. Matrimonio Fiat Chrysler per superare la crisi. Oggi l'annuncio della firma di un accordo preliminare che sarà completato entro il mese di aprile. In ballo un'acquisizione da parte del Lingotto del 35% della società, quota che potrebbe salire al 55%. Vertice intanto oggi a Parigi dei principali costruttori di auto francesi. Parigi concederà al settore aiuti per oltre 5 miliardi di euro e chiede un piano unico europeo. 1 milione di persone, forse il doppio, assisteranno a Washington al giuramento come presidente degli Stati Uniti di Barack Obama. La cerimonia comincerà alle 16 italiane, le 10 del mattino a Washington. Ve la racconteremo in diretta per tutta la giornata anche a Radio 24. La confisca dei terreni di Punta Perotti sul lungomare di Bari, secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, è avvenuta in violazione del diritto della protezione della proprietà privata. Per l'ecomostro abbattuto, insomma, lo Stato dovrà pagare, hanno stabilito i giudici di Strasburgo. Solo una breve udienza e subito rinviato l'atteso processo a Napoli per Calciopoli. Per 18 imputati c'è stato un errore tecnico di notifica. Si ricomincerà il 24 marzo. Il PM Filippo Beatrice. Siamo sereni, affrontiamo il processo serenamente e non c'è altro da dire, ovviamente. Insomma, entro il 2012 riteniamo di poter concludere i 3 gradi del giudizio. Non pensiamo di avere dei problemi da questo punto di vista. Contro la camorra, così come contro la mafia e l'andrangheta, intendiamo lottare senza quartiere fino alla vittoria finale. Parole del ministro dell'interno Roberto Maroni, ha ricevuto al Viminale gli autori dell'arresto del boss camorrista Giuseppe Setola. Estesa anche al sud l'allerta per il maltempo. Attesi temporali e venti forti non hanno provocato disagi intanto alla circolazione. Le nevicate che nella notte hanno interessato circa 200 km della rete autostradale nel nord Italia, dove la neve dovrebbe cadere anche nelle prossime ore. Una delegazione di abitanti di Stromboli e a Roma protestano contro la drastica riduzione dei servizi Siremar e della nave che collega l'isola alle Eolie con Napoli. Il rischio che corriamo è che ci taglino un numero consistenti di corse che per noi sono di esigenza vitale, visto che prendiamo i mezzi per raggiungere la terraferma per qualunque piccola esigenza, andare a fare un esame di sangue, andare dal dottore, in banca, comunque dobbiamo spostarci da Stromboli o dalle altre isole. Un premio ai super poliziotti che hanno catturato il boss Setola. Il riconoscimento ai membri della polizia che sono stati protagonisti in questi giorni di una serie di operazioni anticamorra arriva dal ministro dell'interno. Allora andiamo al Viminale dove c'è Andrea Viali. I successi ottenuti contro la camorra sono frutto di un modello d'eccellenza che intendiamo esportare anche nella lotta alle altre organizzazioni criminali. È questo l'impegno preso oggi dal ministro dell'interno Maroni, che al Viminale ha ricevuto gli autori dell'arresto del boss camorrista Giuseppe Setola. Con il ministro c'erano i vertici di carabinieri, polizia e finanza che, assieme ai militari dell'esercito, lo ricordiamo, dopo la strage di Castel Volturno hanno rafforzato la loro presenza in campagna, specie nel casertano. Alle forze dell'ordine è andato il ringraziamento di Maroni, che ha ribadito l'impegno del governo nella lotta al crimine organizzato. Sentiamo il ministro. Oggi non vogliamo fare trionfalismo, è il giusto riconoscimento nei confronti di uomini e di donne che tutti i giorni stanno sul fronte, che rischiano la propria vita anche e che combattono con grande efficacia la criminalità organizzata, e io voglio che sappiano che le istituzioni, il Ministero dell'Interno e tutto il governo sono accanto a loro in questa lotta quotidiana che si deve concludere e si concluderà, io mi auguro, con la vittoria finale contro ogni forma di criminalità organizzata. All'incontro del Viminale erano presenti anche il procuratore nazionale antimafia Grasso e il procuratore della direzione distrettuale antimafia di Napoli, Roberti. Quest'ultimo si è rivolto al mondo politico che in questi giorni sappiamo discute della riforma della giustizia e lo ha invitato a non modificare il rapporto fra pubblici ministeri e polizia giudiziaria perché, ha detto Roberti, è un rapporto che funziona bene, come dimostra anche l'arresto di Setola. Dal Viminale è tutto, linea allo studio. Grazie dunque ad Andrea Viali. E intanto un istante fa è arrivata la conferma, proprio a proposito di giustizia di cui parlavi tu, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha confermato che la riforma della giustizia verrà presentata al tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì prossimo, il 23 di gennaio. Andiamo in Russia ora. Ieri in pieno centro a Mosca uccisi una giornalista di 25 anni che era stagista alla Nova Gazeta, il giornale dove aveva lavorato anche Anna Politkovskaya, e ucciso anche un avvocato dei diritti civili che aveva difeso invece una ragazza cecena stuprata da un colonnello dell'esercito russo. In diretta da Mosca ci colleghiamo con Antonella Scott. Buongiorno Antonella. Buongiorno, sì. E ci sono novità intanto sul fronte giudiziario e sul fronte dei responsabili di questo duplice omicidio che insomma, mette poi in discussione anche la libertà di informazione in Russia. Beh, la commissione inquirente non esclude nessuna pista, naturalmente, però dà credito al legame tra l'omicidio e l'attività professionale di Stanislav Markelov, che appunto era considerato un simbolo come avvocato che si occupava dei diritti umani, in particolare delle dei civili ceceni che subiscono abusi per soprattutto di militari russi. E infatti in questo senso il legame più immediato è quello con il caso di Elsa Kungai, che nel 2000 era stata uccisa dal colonnello Igor Budanov, che la settimana scorsa è stato rilasciato dopo aver scontato soltanto una parte della pena. E il legame poi con Anna Politkovskaya è appunto nella giornalista che è stata uccisa ieri insieme a Markelov, perché era una stagista e si occupava di gruppi ultranazionalisti. Può darsi che sia in questi ambienti che si debba ricercare l'assassino. La polizia ritiene che non abbia agito da solo, proprio perché Budanov era diventato un po' un simbolo per loro. Infatti, che reazione c'è stata da parte dell'opinione pubblica, appunto? Ecco, sì, sul luogo del delitto, sul marciapiede della via Prečistenka, dove è stato ucciso Markelov, stanno arrivando molte persone portando fiori e candele, e la maggior parte di loro se la prende con lo stato di illegalità, il fatto che in Russia si allunga la lista degli omicidi che rimangono senza risposta, però ci sono anche quelli che pensano che la responsabilità sia comunque di gruppi ceceni, che in questo modo hanno voluto far ricadere la responsabilità su Budanov, che naturalmente si è detto estraneo alla vicenda. Staremo a vedere, grazie Antonella Scott. E intanto però su questo l'intervista di Roberta Pellegatta a Matteo Cazzulani, presidente di Anna Viva, l'associazione per lo sviluppo della democrazia in Est Europa. Gli ultimi omicidi commessi dal governo russo, perché questa è la vera matrice dell'omicidio, contro l'avvocato e la giornalista erede di Anna, che lavorava appunto nella Novaya Gazeta, è la chiara dimostrazione di come la Russia di oggi, che fa la voce grossa con un'Europa divisa e debole sulla tematica del gas, sia uno Stato completamente autoritario. Perché? Perché le opposizioni sono imbavagliate, perché non c'è una volontà di riconoscere quella che è una libertà di espressione, vi è una concezione della democrazia legata ad una dinamica della verticale del potere in cui vi è un leader forte che trascina il popolo senza dare alcun significato alla vita del singolo. Questa è la democrazia, tra virgolette, in salsa putiniana, e certo lascia molto amareggiati il fatto che ancora nel XXI secolo vi siano giornalisti che hanno come compito quello di raccontare i fatti, quello di rendere, diciamo, il più pubblico possibile anche un massacro come lo è quello dei russi in Cecenia, e appunto fa ancora più scalpore sentire come l'Unione Europea, come il mondo occidentale fatichi a condannare in una piena voce questi crimini, perché appunto ci fa comodo trattare un migliore prezzo del gas. Vediamo le vicende di casa nostra. Che fine farà la commissione di vigilanza della RAI? Ieri le dimissioni dei membri di PDL e PD, oggi Villari ha revocato la convocazione della riunione della commissione, ma a questo punto cosa succede? Elisabetta Fiorito. E probabilmente si chiuderà definitivamente domani la vicenda della Commissione Vigilanza Rai. Le giunte del regolamento di Camera e Senato si riuniranno alle 9 per uscire dall'impasse dopo che 37 dei 40 membri si sono dimessi per protestare contro la permanenza di Riccardo Villari alla presidenza. Villari sarebbe intenzionato a dimettersi solo dopo il regolamento per le elezioni in Sardegna e le nomine del CDA Rai. Una scelta che non piace a PDL e PD. Oggi interviene ancora Italo Bocchino per il PDL e promette che i presidenti di Camera e Senato, Fini e Schifani, scioglieranno la commissione. Intanto Villari procede come niente fosse, aveva convocato una seduta della vigilanza annullata solo, precisa Villari, perché deputati e senatori sono impegnati in aula. Niente quindi dimissione all'orizzonte, un no comment sulle dimissioni dei membri della commissione. Intanto sulla RAI interviene anche il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, è un'azienda che ha bisogno di essere ripresa in mano da una dirigenza legittimata dal Parlamento. Spero si risolva presto. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. E mentre la politica, come abbiamo sentito, ormai da settimane si arrovella attorno al caso della vigilanza, della commissione di vigilanza RAI, l'azienda pubblica sta per perdere un colosso da 90. Parliamo del possibile trasloco di Fiorello su Sky. Signore e signori, buonasera. La RAI, Radio Televisione Italiana, ha il piacere di presentarvi il varietà più corto del più breve. Mondo. Breve del mondo. Ebbene, presto la RAI potrebbe non avere più il piacere. Dopo i trionfi di Rai 1 e di Radio 2, Fiorello potrebbe approdare a Sky per una nuova avventura professionale. Mio padre mi disse, sai che mi è venuta un'idea? Secondo me tu devi assaggiare che cosa vuol dire lavoro. No, ma papà, ma lascia stare, sai, io l'estate medito sul prossimo anno e dico, non meditare, ti faccio meditare io. Ti ho trovato un posto di lavoro. Io ho detto, oh, che bello papà, mi ha trovato un posto di lavoro. Dove mi avrei mandato a lavorare? L'indiscrezione arriva dal sito Dagospia, ma ci sono dati certi. Uno spot che parla dello show di Fiorello va in onda su Sky da fine anno. Le TV di Murdoch dovrebbero quindi trasmettere il suo spettacolo teatrale in scena a Roma. Ma non basta. Il 9 gennaio in un hotel di Milano lo showman sarebbe stato avvistato proprio con Murdoch. Giampiero Solari, l'autore storico di Fiorello, collabora da mesi con la piattaforma satellitare, piattaforma che trasmetteva già lo show radiofonico in TV. Era Rai Sat Extra, sì, ma con una produzione autonoma solo per il satellite. E come non ricordare gli Sky Awards con Fiorello Mattatore? Ho sempre guardato Sky da quando c'era Telepiù. All'epoca era facile fare le schede tarocche, tutti dicevano, ma che c'è la scheda originale, ma sei scemo. Forse Sky ha intercettato la voglia di Fiorello di sperimentare, di fare una televisione meno grigia. Faremo un dirigente Rai, va bene? Uscite di casa e prendete il primo passante che trovate. Fatto. Bene, mettetegli una giacca grigia dopo, un pantalone grigio dopo, una cravatta grigio dopo con puntini rossi, quindi un grigio dopo con la varicella. Fatto. Bene. Certo è che con l'acquisto già sicuro di Lorella Cuccarini si aprirebbe una nuova stagione della TV. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:36, le notizie di oggi extra large. Matrimonio Fiat Chrysler per superare la crisi. Oggi la firma di un accordo preliminare che sarà completato entro il mese di aprile. In ballo un'acquisizione da parte di Lingotto del 35% della società, quota che però potrebbe salire anche al 55%. Vertice intanto a Parigi dei principali costruttori di auto francesi. Parigi concederà al settore aiuti per oltre 5 miliardi di euro e chiede un piano unico europeo. 1 milione di persone assisteranno a Washington al giuramento come presidente degli Stati Uniti di Barack Obama. La cerimonia comincerà alle 16 italiane, alle 10 del mattino a Washington. Ve la racconteremo in diretta durante la giornata anche a Radio 24. Nella notte italiana intanto Obama ha partecipato ad una cena rendendo omaggio a quello che è stato il suo avversario. I am here tonight to say a few words. Sono qui per dire qualche parola su un eroe americano, John McCain, ha detto Obama. Nei prossimi mesi non saremo sempre d'accordo, ma se sbaglierò, lui me lo farà sapere. Le ultime unità israeliane stanno lasciando Gaza, intanto parte la missione umanitaria italiana. Nella striscia arriveranno medici e medicinali e due bambini in queste ore vengono trasferiti in un ospedale toscano per essere curati. La capo missione, Elisabetta Belloni. Oggi chiederà alle parti quindi sia ai palestinesi che agli israeliani, di consentire il trasferimento ogni giorno di un certo numero di feriti gravi che potranno essere curati adeguatamente negli ospedali dell'Autorità Nazionale Palestinese in Cisgiordania con equip mediche italiane che giungeranno nei prossimi giorni. La confisca dei terreni di Punta Perotti sul lungomare di Bari, secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, è avvenuta in violazione del diritto della protezione della proprietà privata. Per l'eco mostro abbattuto, dunque, lo Stato dovrà pagare, hanno stabilito così i giudici di Strasburgo. Contro la camorra, lotta senza quartiere, parole del ministro dell'Interno Maroni, che ha ricevuto al Viminale gli autori dell'arresto del boss Giuseppe Setola. Io voglio che sappiano che le istituzioni, il Ministero dell'Interno e tutto il governo sono accanto a loro in questa lotta quotidiana che si deve concludere e si concluderà, io mi auguro, con la vittoria finale contro ogni forma di criminalità organizzata. Estesa anche al sud l'allerta per il maltempo, attesi temporali e venti forti non hanno provocato disagi alla circolazione, le nevicate che nella notte hanno interessato circa 200 km della rete autostradale nel nord Italia, dove la neve dovrebbe cadere anche nelle prossime ore. Siamo ai dati economici della giornata. I cali tendenziali rilevati a novembre per fatturato e ordinativi, parliamo dell'industria italiana, rispettivamente meno 13,9% e meno 26,2%, sono i peggiori dal gennaio del 91. Su base mensile il calo è stato del 3,9% per quanto riguarda il fatturato. Ed è nel settore dell'auto dove fatturato e ordinativi vanno davvero a picco. Il fatturato qui è diminuito del 29,3% rispetto a novembre 2007, 30,3% sul mercato nazionale, 27,9% sul mercato estero. Gli ordinativi, cioè una misura di quanto si produrrà in futuro, di quanto sarà la crisi nei prossimi mesi, qui il crollo è del 31%. E fin qua i dati Istat, però per contrastare il declino i produttori si muovono. C'erano state delle indiscrezioni, oggi è arrivata la conferma, come avete sentito anche dai nostri titoli, l'apertura di GRX a large, Fiat stringe dunque un accordo con Chrysler, un accordo che per ora è un preliminare e sarà chiuso definitivamente entro le prossime settimane. Andrea Malan, buongiorno, collega del buongiorno Sole 24 Ore. Andrea, è un accordo importante perché investe aspetti non solo industriali ma anche commerciali e finanziari. Certo, è un accordo innanzitutto appunto di medio-lungo periodo, verrà firmato ad aprile quando sarà un po' più chiaro il futuro di Chrysler. Sappiamo che gli americani sono in difficoltà, hanno avuto degli aiuti dal governo e ne avranno altri dalla nuova amministrazione di Barack Obama. Entro il 31 marzo si saprà che forma avrà la Chrysler e su quali fondi potrà contare. Ad aprile verrà firmato il contratto che vedrà in sostanza la possibilità per Chrysler di utilizzare tutte le piattaforme e i motori di piccole e medie dimensioni che la Fiat ha già e che per Chrysler sono una novità, perché Chrysler è abbastanza sbilanciata sulle auto medio-grandi, SUV eccetera, quindi questo aiuto da parte di Fiat colma un buco molto importante nella sua gamma. Torino dal canto suo a medio termine potrà utilizzare sia gli stabilimenti Chrysler negli Stati Uniti che la sua rete di distribuzione per riportare in America modelli come la 500 o l'intera gamma Alfa Romeo, del cui ritorno appunto negli Stati Uniti si parla da anni ma che è stato rinviato più volte ultimamente ovviamente per la crisi del mercato. Quindi è un accordo diciamo operativo commerciale, ma in base al quale anche la Fiat, dando appunto cedendo a Chrysler queste tecnologie, otterrà in cambio non fondi che Chrysler non ha, ma una quota nel costruttore americano che sarà inizialmente appunto del 35%, ma che potrebbe salire in futuro. In sostanza per Torino è una scommessa sul fatto che Chrysler con questi aiuti riuscirà a sopravvivere e potrà nei prossimi trascinarla anni, in qualche esatto modo. Grazie Andrea Malan, naturalmente continueremo a parlarne anche in Focus Economia poi a partire dalle 17. Sì ad un matrimonio pensa la Fiat per superare la crisi, Parigi prova invece con gli aiuti di Stato. Attilio Geroni, buongiorno anche a te. Buongiorno a voi. Dunque la Francia è disposta a varare un nuovo pacchetto di aiuti all'industria dell'auto, perché uno è già stato varato nelle settimane scorse, quindi il primo ministro francese ha anticipato una cifra, si tratta di 5-6 miliardi di euro e non è chiaro ancora come saranno utilizzati. Il problema delle case automobilistiche in generale, ma anche di quelle francesi, è quello di rifinanziarsi, hanno le loro controllate finanziarie che devono finanziare anche a loro volta l'acquisto a credito di auto, quindi fa bisogno di di rifinanziamento dei costruttori francesi come di altri è enorme, quindi lo Stato francese è disposto a sbloccare in tempi ragionevolmente brevi 5-6 miliardi di euro per rispondere ai cosiddetti bisogni immediati di breve termine di tesoreria. Altre misure dovrebbero essere annunciate, però attenzione, non si tratta di un regalo. In cambio il governo francese vuole delle contropartite. Le contropartite sono nessuna delocalizzazione, nessuna chiusura di stabilimenti produttivi in Francia e la rinuncia per i dirigenti ai bonus e agli azionisti dei dividendi. Grazie a Attilio Geroni. Salutiamo una nuova collega, Giulia Crivelli. Buongiorno. Buongiorno. I giornali stranieri, perché vogliamo partire proprio da un commento in anticipo della notizia Fiat Chrysler, Wall Street Journal. Chi già lo sapeva. Sì, Wall Street Journal e Financial Times entrambi mettono questa notizia in prima pagina, è diciamo un segnale di ottimismo, tutto sommato lo sono sempre questi grandi accordi in mezzo invece appunto a tutte queste notizie di aiuti che arrivano, di salvataggi in extremis. Wall Street Journal in particolare sottolinea come tutto sommato sia un'alleanza simile a quella che da molto tempo hanno stretto la francese Renault con la giapponese Nissan, cioè ci sono grandi sinergie possibili sulla carta, perché Fiat è poco presente nel mercato americano e viceversa Chrysler lo è poco nel mercato europeo dopo il disastroso il fallimento della alleanza con Daimler Chrysler, che appunto non si chiama più Daimler Chrysler, e quindi potrebbe essere in futuro una buona soluzione per tutte e due. Come diceva Andrea, poi dipenderà molto dal salvataggio di Chrysler, che è cosa di Obama, dell'amministrazione Obama, e poi anche da come andrà il mercato in generale. Senti, non possiamo non fartela una domanda però, perché oggi è il giorno di Obama. È il giorno di Obama, c'è veramente l'imbarazzo della scelta. I giornali europei forse sono addirittura più zeppi di notizie di Obama che quelli americani, però c'è il special issue di Business Week, il settimanale americano, c'è una foto in bianco e nero molto bella di Obama, è praticamente tutto dedicato a lui questo numero, e il titolo è molto indicativo: Getting Down to Business, cioè adesso però si comincia a fare sul serio, perché appunto business vuol dire anche in questo senso, cioè adesso però ci occupiamo delle cose serie. Archiviata l'inaugurazione, dice Business Week, va bene, facciamola in grande stile, però poi passiamo ai problemi economici e c'è naturalmente le 10 battaglie principali che iniziano col pacchetto di stimoli all'economia, ma che poi devono far seguito con una generale rivisitazione delle regole, a partire naturalmente da quelle finanziarie che hanno dimostrato di essere inefficaci. Grazie a Giulia Crivelli. Abbiamo parlato oggi molto di auto, il matrimonio Fiat Chrysler, c'è anche la Ferrari che sceglie l'energia alternativa, ma non per alimentare le sue nuove vetture, almeno per ora, almeno per il momento, si tratta di alimentare i suoi stabilimenti, ed è già un bel segnale ecologico, ci racconta tutto Emilio Buttaro da Maranello. Sì. Sì, è in corso l'inaugurazione dell'impianto fotovoltaico qui a Maranello, una realizzazione che rientra negli investimenti previsti dalla Ferrari nell'ambito della sostenibilità ambientale e dello sfruttamento di energia da fonti rinnovabili. Il presidente autorità per l'energia elettrica e il gas Alessandro Ortis ha evidenziato i compiti significativi che il nostro paese dovrà svolgere in tema di energia ed ha poi stigmatizzato l'importanza del nuovo impianto fotovoltaico riguardo alla tutela dell'ambiente. E sempre in tema di energia e ambiente, il presidente Luca di Montezemolo si è soffermato sugli obiettivi di miglioramento per il biennio 2008-2009, con la riduzione del 40% delle emissioni fino ad arrivare al 2010, quando l'intento è quello di arrivare ad un'autosufficienza totale nel consumo di energia elettrica. Il presidente Montezemolo sta ancora parlando, ovviamente non è mancata la domanda sulla vicenda Fiat Chrysler, e il Luca Cordero di Montezemolo ha confermato che è stato appena redatto un comunicato, una sorta di lettera di intenti non vincolante tra le due aziende. Grazie, e di questo noi abbiamo già parlato. Grazie Emilio Buttaro. 13:47 minuti, le notizie di oggi. Matrimonio Fiat Chrysler per superare la crisi, oggi la firma di un accordo preliminare che sarà completato entro il mese d'aprile. In ballo un'acquisizione da parte del Lingotto del 35% della società. 1 milione di persone assisteranno a Washington al giuramento come presidente degli Stati Uniti di Barack Obama, la cerimonia alle 16 italiane. Ve la racconteremo in diretta anche a Radio 24. La confisca dei terreni di Punta Perotti sul lungomare di Bari, secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, è avvenuta in violazione del diritto della proprietà privata. Per l'ecomostro abbattuto, dunque, lo Stato dovrà pagare, hanno così stabilito i giudici di Strasburgo. Solo una breve udienza, è subito rinviato l'atteso processo a Napoli per Calciopoli. Per 18 imputati c'è stato un errore tecnico di notifica. Si ricomincerà il 24 marzo. E allora riprendiamo proprio dalla vicenda di Punta Perotti, l'ecomostro sul lungomare di Bari, abbattuto, ricorderete, 3 anni fa. Ebbene, oggi a dare una lettura ben diversa della vicenda è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Su quei suoli dove oggi sorge un giardino che quasi per un paradosso si chiama Parco della Legalità, il complesso edilizio denominato Punta Perotti sul lungomare a sud di Bari è stato prima confiscato e poi abbattuto in modo illegittimo. Per la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo lo Stato italiano ha violato l'articolo 7 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, accolto il ricorso delle imprese Sudfondi, Mabar e Iena, che rispettivamente fanno capo ai costruttori Matarrese, Andideo e Quistelli. Tra danni morali e spese legali, i giudici di Strasburgo hanno condannato lo Stato italiano al pagamento della somma di 40.000 euro ciascuno, fissato anche un termine di 6 mesi entro il quale il governo dovrà trovare un accordo con gli imprenditori. La richiesta per il risarcimento dei danni materiali ammonta infatti a 500.000 euro. La magistratura nel 2001 ritenne il complesso edilizio abusivo, di cui la confisca e l'abbattimento, deciso quest'ultimo dal comune di Bari nel 2006, nonostante gli imputati fossero stati assolti con sentenza definitiva per aver edificato con tutte le autorizzazioni necessarie. Giovanni Longo, GR24, Il Sole 24 Ore, Bari. E a Napoli invece l'avete sentito al via, ma subito fermo il processo per Calciopoli. Su quei suoli dove oggi sorge... La prima udienza del processo sullo scandalo Calciopoli in programma questa mattina a Napoli si è aperta ed è stata subito rinviata al 24 marzo. La nona sezione penale ha dovuto fare i conti con 3 difetti di notifica. Alla sbarra 24 imputati, tra cui l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, personaggio chiave della vicenda che oggi non era in aula. Moggi è stato rinviato a giudizio per associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva, insieme ad altre 12 persone, tra cui l'ex arbitro De Santis e gli ex designatori Bergamo e Pairetto. Per altri 11 imputati che hanno scelto il rito abbreviato, il procedimento è già in corso e riprenderà il prossimo 9 febbraio. L'impianto accusatorio, basato su migliaia di intercettazioni, ipotizza una serie di combine e favori arbitrali che avrebbero alterato il regolare svolgimento dei campionati a vantaggio della Juventus e di altre squadre legate a Moggi. L'ex dirigente bianconero intende chiamare a deporre quasi 500 testimoni, tra cui anche il premier Berlusconi. L'8 gennaio scorso Luciano Moggi e il figlio Alessandro sono stati condannati rispettivamente ad 1 anno e 6 mesi e ad 1 anno e 2 mesi pena sospesa nel processo GEA. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Da Napoli a Roma, dove va in scena la protesta degli abitanti di Stromboli. Perché? Paola Cavadi, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. La privatizzazione della Tirrenia, la compagnia di trasporti marittimi da cui dipendono Siremar e altre compagnie regionali, mette a rischio i collegamenti da e per le isole minori. Per questo è in corso qui al Ministero delle Infrastrutture un tavolo tecnico tra il ministro Matteoli e i sindaci delle isole che chiedono a gran voce al governo di trovare una soluzione. Traghetti e aliscafi sono infatti per gli abitanti delle isole come veri e propri autobus. Spesso per andare al lavoro, a scuola o in ospedale bisogna spostarsi da un'isola all'altra o raggiungere la terraferma. E mentre i sindaci discutono col ministro, gli abitanti di Stromboli hanno allestito qui fuori un banchetto di prodotti tipici: malvasia, capperi, pietrapomice, tutti i prodotti che dicono senza i traghetti sarà molto più difficile gustare. Abbiamo raccolto il contributo di uno strombolano, sentiamolo. Siamo qui a dare manforza ai nostri sindaci delle isole Eolie, delle isole minori della Sicilia, perché hanno organizzato un tavolo tecnico con il ministro Matteoli per discutere sui problemi dei trasporti marittimi, perché vogliono toglierci i trasporti marittimi essenziali, la Siremar, il nostro mezzo di comunicazione come per esempio l'autobus per voi in città. Quindi siamo qui a protestare, e abbiamo organizzato questo tavolo tecnico per far vedere al ministro che se lui ci toglie i mezzi di trasporto non potrà mai venire ad assaggiare queste delizie che sono il frutto dei prodotti della nostra terra. E grazie anche alla nostra Paola Cavadi. Siamo in chiusura, ancora una volta il riepilogo delle principali notizie. Il giorno più atteso per Barack Obama alle 16 italiane, giurerà e sarà il primo presidente nero degli Stati Uniti.